Allora, gli studi di linguistica, le teorie linguistiche sono state totalmente rinnovate agli inizi del Novecento da un signore che si chiamava Fernand de Saussure. Che era un signore svizzero che insegnava a Ginevra. La sua opera principale si chiama Cours de linguistique générale, cioè corso di linguistica generale, ed è stato pubblicato dopo la sua morte e non possiamo dire che sia stato scritto da lui perché è una collazione, si dice in termini tecnici, una messa a confronto degli appunti molto approfonditi presi da due suoi allievi durante vari anni. Mi sembra siano due fondamentalmente le annate con delle integrazioni di una terza. Questo corso di linguistica generale si è rivelato, è uscito, non mi ricordo più se nel 12 o nel 13, 1912, quindi quasi un secolo fa, si è abbastanza rapidamente rivelato, quindi non in vita, diciamo, l'autore, forse era già morto nel frattempo, si è rivelato essere una delle opere più significative per una nuova visione sulla linguistica. La linguistica dell'Ottocento era una linguistica comparata, comparativa si chiama, ed era uno studio sulle famiglie linguistiche, in modo particolare su di una supposta lingua che non esiste, che è una cosa, che era una ipotetica lingua progenitrice di tutte le lingue che si chiamano appunto indo-europee. La grande famiglia delle lingue indo-europee comprende una parte delle lingue parlate in India attuale, cioè l'hindi, ma non l'urdu per esempio, l'iraniano, la lingua che si parla in Iran, che come voi sapete non è un popolo arabo, l'iraniano è un popolo indo-europeo, e la gran parte, cioè praticamente quasi tutte le lingue si parlano in Europa, quindi la grande famiglia delle lingue slave, la famiglia delle lingue germaniche, scandinave, tedesco, eccetera, che sono parentate, le lingue cosiddette neolatine, oltre al greco moderno. Le lingue latine sapete che sono l'italiano, il francese e lo spagnolo. Tutte queste lingue hanno una struttura comune, hanno alcune particolarità, sono lingue flessive, sono lingue in cui le vocali hanno. In Europa sono poche le lingue che non sono indo-europee, anche se sono significative, esse sono principalmente il finlandese, l'ungherese e il basco, che sono lingue non indo e non indoeuropee, hanno altre, alcune abbastanza misteriose, per esempio, tutte sono misteriose, non si sa bene a quali altre famiglie apparentarle. Le altre grandi famiglie sono poi, ci sono quelle. Nell'Oriente ci sono altre, insomma, famiglie, poi è pieno ovviamente di lingue, pieno di famiglie di lingue estinte. La più gloriosa delle famiglie di lingue praticamente estinte sono le varie famiglie di lingue parlate dai nativi del Nord America, che essendo stati gentilmente sterminati dall'uomo bianco nel corso di un secolo e mezzo, poco più, genocidio esteso nel tempo e abbastanza efficiente perché ha di fatto sterminato quasi tutte le popolazioni, e quindi ovviamente sono perse anche la gran parte delle lingue che parlavano questi. Allora, i linguisti dell'Ottocento, secondo una logica un po', insomma, pensavano che ci fosse, che fosse ipotizzabile, diciamo con un salto logico, insomma, perché non è che fosse ipotizzabile che se tutte queste lingue avevano una caratteristica comune, in base ad una visione, diciamo, darwiniana ingenua, anzi darwiniana stupida, come si dice che l'uomo discende dalla scimmia, che è una frase priva di senso e di significato, perché l'uomo non discende da nulla, sarà disceso dagli alberi a un certo punto, ma che cazzo vuol dire che l'uomo discende dalla scimmia? L'uomo è parente della scimmia, ma quello che discende, non c'è nessuna discendenza, cioè le specie biologiche si formano in modo totalmente casuale, e così in modo totalmente casuale si formano e arbitrario si formano le lingue, i linguaggi. Quindi il fatto che tutte queste famiglie, che tutte queste lingue abbiano delle caratteristiche comuni non vuol dire affatto che debba essere esistita una lingua, diciamo, comune, ma la cultura dell'Ottocento, insieme positivistica e storicistica, pensava questo, dice allora ci sarà stata una lingua indoeuropea. E fior di linguisti nell'Ottocento si sono dedicati ad un lavoro assolutamente cretino, cioè quello di ipotizzare, di costruire artificialmente una lingua che non esisteva, su cui non c'erano, di cui non c'è nessun documento. Alcuni di questi linguisti, per esempio, pensavano che il sanscrito, che è la più antica versione di una famiglia linguistica, quella dello Hindi parlata in India, fosse la più vicina possibile all'indoeuropeo. Poi anche il greco e il latino, anche il latino erano due lingue che venivano solo, e quindi sulla base del sanscrito e di altre cose tentarono di costruire questa ipotetica e assurda lingua indoeuropea. Quindi una concezione, diciamo così, storicistica e evoluzionistica ingenua delle lingue, che Saussure praticava su altre cose, perché lui poi era uno specialista di anagrammi, che cosa strana, gli unici libri che ha pubblicato in vita erano degli studi di anagrammi in antiche poesie vediche, però poi nei corsi di linguistica generale lui invece introdusse uno sguardo sulla lingua totalmente diverso, opposto a questa visione così, no? E che fa di lui, che ha fatto di lui dopo la sua morte, cioè molta gente, soprattutto un gruppo di linguisti raccolto negli anni 20 nella città di Praga, è noto col nome di appunto Circolo Linguistico di Praga, soprattutto il Circolo Linguistico di Praga, vide in Saussure un suo, diciamo, il progenitore di quella che dagli anni 20 del secolo scorso in poi si chiama linguistica strutturale. Ovviamente Saussure non ha mai saputo di essere il fondatore della linguistica strutturale, perché era già morto, però questo succede spesso, che uno non sappia di aver fondato delle cose. Allora, il corso di linguistica è molto ampio, però insomma vi posso solo dire questo, si articola intorno ad alcune coppie di opposizione, si articola intorno a una nozione di segno generale e ad alcune coppie, ad alcune opposizioni concettuali. Dimenticavo di dirvi naturalmente che oltre alla linguistica strutturale, il signor de Saussure viene considerato, insieme al filosofo nordamericano Charles Saunders Peirce, il fondatore della cosiddetta semiotica, cioè di una teoria generale dei segni. Charles S. Peirce. Ah, caro mio, sono dislessico oggi. Adesso, siccome questo non è un corso di semiotica, non vi racconterò la differenza fra la nozione di segno di Peirce e quella di Saussure, che sono un po' diverse, insomma, però quindi stiamo a, diciamo, Saussure. Allora, Saussure è Saussure formula la sua nozione di segno dicendo il segno è un oggetto, qualche cosa, è un costrutto culturale dell'uomo ed è formato dalla unione indissolubile, non è possibile separare i due aspetti del segno da un punto di vista, diciamo, non dico fisico, ma pratico in qualche maniera, nell'uso, però concettualmente possono essere separati, quindi il segno è l'unione di un significante e di un significato. però dice insomma, la stasera è come se fossero le due facce di uno stesso foglio, sono due facce diverse, ma non potete avere un foglio con una faccia sola, anche se possedeste il coltello magico del macellaio di Chuang Tzu, che è capace di tagliare la carne pure senza filo, perché trova la linea di confine tra fibra e fibra, e quindi senza bisogno di uccidere la carne si insinua. Anche se voi aveste quello, non è possibile avere un foglio che non abbia contemporaneamente due le parti. Ecco, questo è il significato. Si può dire in tanti altri modi diversi, ma diciamo, da allora questa definizione di segno come unità indissolubile tra significante e significato è diventata non solo il punto di partenza della linguistica moderna, cioè quella del Novecento, ma anche della semiotica e delle varie scuole, diciamo, semiotiche. In realtà, molto probabilmente, più che questa che è la più famosa però, un'altra delle grandi idee innovative del corso di linguistica di Saussure è quella diciamo riassunta o indicata nella dicotomia, se dico dicotomia vi arrabbiate? No, cioè sapete cos'è una dicotomia? Una differenza, l'articolazione di due concetti diversi ma che hanno una radice comune. Allora, forse la più importante dicotomia introdotta da Saussure nelle sue teorie è quella tra lang e parole. È importante, bisogna capirla, perché poi dopo se no non si capisce bene la linguistica successiva. Non che prima di lui nessuno avesse mai avuto un'idea, in qualche maniera la differenza tra lang e parole è implicita in tante delle teorie linguistiche anche del XVII secolo. Per esempio nelle teorie linguistiche di Port Royal, di cui vi ho parlato, a cui vi ho accennato le volte scorse. In realtà non è stata, diciamo, nessuno prima di Saussure l'aveva formulata in modo così chiaro. Allora, sia lang che parole sono due parole francesi, ma per fortuna noi siamo italiani, quindi capiamo abbastanza facilmente che possono essere tradotte approssimativamente con lingua e con parola, però voglio dire, siccome poi queste robe sono andate nella tradizione culturale anche anglofona e per gli anglofoni sull'inglese è un po' più complicato, perché la parola francese langue, come italiana lingua, può essere viene tradotta genericamente con language, mentre parola è word. E poi però c'è speech, il termine speech in inglese non è esattamente il nostro termine discorso, a volte potrebbe essere sovrapposto in parte ad alcuni significati del francese parole. Quindi gli inglesi hanno giustamente lasciato la dicotomia nella lingua originale in cui scriveva Saussure, che era svizzero francese, quindi in francese. Lang e parole. Per cercare di capirla, mettiamola nel modo più semplice così. Un linguaggio è un insieme di produzioni linguistiche, l'insieme di tutte le produzioni linguistiche possibili, producibili all'interno di una data comunità, cioè di persone che parlano la stessa lingua, cioè di persone che parlano e si capiscono tra loro perché condividono un lessico, delle regole grammaticali, eccetera, eccetera, come noi, adesso noi siamo un pezzettino in questo momento della comunità linguistica dei parlanti l'italiano. Io adesso sto parlando, sto dicendo delle frasi. Che cosa sto facendo? Sto facendo della parole, sto producendo delle frasi, delle parole concatenate. Vuol dire che tutte le mie frasi sono giuste grammaticali? No, io posso benissimo sbagliarmi quando parlo, posso sbagliare una parola per un'altra, posso magari ho bevuto un bicchierino di troppo, non articolo bene, mi può scappare una fiammaticatura, posso pronunciare male delle parole. Ogni atto di parole è diverso dagli altri atti di parola. Se tu adesso ti alzassi e per una sorta di miracolo, perché lo Spirito Santo ti illumina, ripetessi esattamente le stesse parole che ho ripetuto io prima, non avresti fatto lo stesso atto di parol mio, perché la lingua è la tua, perché la pronuncia è la tua, perché anche se le parole, anche se le words, anche se gli items sono gli stessi, anche se i mattoni di cui è costruito i nostri due torri fossero gli stessi, in realtà sarebbe sempre un atto, e anche perché poi tu ripetendo potresti metterti degli errori tuoi, correggere i miei, aggiungerne di nuovi, insomma. La lingua, dice Saussure, è un insieme di atti di parole, di espressioni verbali diverse le une dalle altre, plurime, plurivoche, dette da voci diverse, con intenzioni diverse, anche all'interno di una unità di tempo o di spazio abbastanza limitata. Se adesso io mi fermo, qualcuno di voi mi fa delle domande, abbiamo un dialogo, un colloquio fatto di tanti atti di parola differenti. Gli atti di parola all'interno di una comunità linguistica sono i più diversi possibili, sono differentissimi tra loro. C'è appunto, c'è chi parla bene, c'è chi parla male, c'è chi parla grammaticato, chi parla sgrammaticato, chi conosce 70.000 parole, chi ne conosce 500. Allora lì con il dialetto c'è una questione precedente, cioè se considerare i singoli dialetti delle varianti di una unica lingua o se considerare le diverse lingue diciamo diverse strettamente apparentate. Ci sono dei casi limite, come sapete. In Italia esistono almeno due cosiddetti diciamo dialetti che aspirerebbero a essere considerati lingue. Non dico il latino, che è veramente una lingua diciamo diversa, ma il sardo e il furlano, cioè il friulano. Queste due lingue sono casi incerti, anche i colinguisti non sono tutti d'accordo se considerare il sardo una lingua. Ovviamente gran parte dei sardi considera, io credo giustamente, la loro cultura. Il sardo è terribilmente differente dall'italiano, per esempio dal punto di vista lessicale. Il lessico del dialetto o della lingua sarda è molto diciamo, diversa. Quindi i dialetti sono un problema per le lingue, cioè possiamo considerarli o delle varianti locali di un'unica lingua. Attenzione ragazzi, questo poi vale, parliamo dell'italiano parlato nel XXI secolo, nel XX secolo, addirittura dell'italiano parlato nel XII secolo, l'italiano fra le lingue diciamo neolatine almeno, ma fra le lingue europee è una di quelle che nasce prima delle altre. Sia i tedeschi che gli inglesi nel 500 parlano, ancora nel XVI secolo parlano delle lingue molto differenti dalla loro lingua attuale, mentre noi no. Noi possiamo considerare Dante difficile perché scrive male, ma il 90% dell'attuale lessico italiano già si trova nella Divina Commedia di Dante. La lingua italiana è una lingua nata molto, molto rapidamente, infatti la nostra letteratura, la letteratura italiana è quella, è la più ampia, ha il corpo di opere più ampio perché comincia nel XIII secolo. Mentre la letteratura francese comincia, la chanson de Roland, che è considerata, che è stata scritta nel X secolo, è scritta in francese incomprensibile per i francesi di oggi, totalmente incomprensibile. A leggere Shakespeare un inglese mette più difficoltà che non noi a leggere Dante, e Shakespeare è del fine del XIII secolo. Quindi è chiaro che la lingua è ovvio che è un fenomeno storico, quindi l'italiano si è formato attraverso vari apporti. Tutti questi apporti hanno dato poi delle conseguenze sul modo in cui si parla l'italiano nelle diverse regioni. L'Italia è una cosa lunga, eccetera, eccetera. E ogni lingua ha una storia, diciamo, diversa. Diciamo, fra il X e il XIII secolo, nella penisola italiana si parlavano probabilmente delle lingue abbastanza diverse ma molto simili tra loro, che poi da un punto di vista letterario vennero della lingua scritta vennero unificate dai toscani nel XIII secolo, e quindi ecco perché l'italiano è, diciamo, ufficiale, la lingua italiana è molto più simile al dialetto toscano che non ai dialetti di altre, diciamo, regioni. Però fino a tutto praticamente l'Ottocento, fino alla metà dell'Ottocento, l'italiano non era una lingua parlata. Non si parlava l'italiano in Italia, anche le classi colte parlavano il dialetto. Ancora oggi, se voi andate in città un po' strana, come Venezia e Trieste, trovate che a Venezia meno adesso, ma quando io ci andavo negli anni, fino agli 60-70, nessuno parlava italiano tra di loro, tutti parlavano bene, tutti parlavano veneziano, che non è proprio veneto. Anche gli avvocati, le persone colte, tutti tra di loro, parlavano tutti il, diciamo, dialetto. Questa cosa è stata così nell'Italia per, diciamo, a lungo. Giustamente Pasolini afferma che in realtà la vera unificazione linguistica dell'Italia, cioè il fatto che l'italiano diventi la lingua parlata, sia soltanto con la televisione, cioè nei primi anni 60 del secolo scorso. Però, diciamo, quindi in qualche maniera l'italiano, che è la lingua più antica, ma non la lingua parlata più antica, perché non è mai stata parlata, rappresenta un fatto di in qualche maniera di scelta consensuale. Pensate invece al francese. Il francese, quando viene, il francese viene imposto come lingua ufficiale del regno di Francia fra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, ma viene imposto in maniera violenta, in maniera violenta vuol dire in maniera giuridica, nel senso che viene, insomma, diventa legge, cioè il Luigi IX, comincia Luigi IX, poi credo Luigi XI è quello che... il francese originariamente è una lingua minoritaria all'interno della Francia e molto differente dalle altre lingue parlate. In Francia si parla, i britannici nella Bretagna parlano bretone, che è una lingua celtica, quindi addirittura neanche una lingua neolatina. In gran parte della Francia centrale si parla il patois, che era una lingua neolatina ma diversa da cosa. Nel sud della Francia si parla provenzale, altra lingua neolatina ma diversa dal francese, dall'italiano, eccetera, eccetera. L'attuale francese era il dialetto, la lingua parlata nell'Île-de-France, cioè nella esigua zona intorno a Parigi, intorno a Parigi, ma siccome Parigi è la capitale, diventa la capitale della Francia, la dinastia dei Capetingi, che è quella che si è succeduta ai discendenti di Carlo Magno, impone con la violenza proprio, cioè stermina, ci ha messo secoli, ma impedisce giuridicamente di parlare le altre lingue, così come lo Stato spagnolo, quando è nato nel lungo processo culminato con il regno di Isabella la Cattolica e di, come cazzo si chiama il marito, non mi ricordo, quelli che hanno pagato Cristoforo Colombo per andarsi a scoprire l'America, e quindi sono quelli che cacciano definitivamente i Mori, anche dal sud, gli arabi anche dal sud della Spagna. Si fa una cosa analoga, cioè il castigliano, la lingua parlata nella regione chiamata Castiglia, stermina, distrugge, emargina le altre lingue parlate in Spagna, che sono il catalano, lingua molto simile non tanto all'italiano quanto al dialetto genovese e al sardo, però lingua chiaramente neo, diciamo, latina, per certi versi comunque più vicina alla nostra del castigliano, e il basco, lingua non indoeuropea neppure, e impongono questa cosa. In genere le lingue sono il risultato della imposizione della lingua della etnia o del gruppo sociale o del gruppo geografico dominante, è così che si formano le, diciamo, nazioni. La lingua è un fattore di unificazione nazionale importantissimo. Tutto per la domanda di Fabio sui dialetti, però abbiamo spiegato anche un po' di altre cose. Fatemi tornare a, diciamo, Saussure. Allora, torniamo alla parola. Allora, tutto quello che io sto facendo adesso, quello che voi fate tutti i giorni, quello che fanno gli annunciatori televisivi per radio, eccetera, è della parola, cioè la parola è l'insieme delle concrete produzioni linguistiche in una data lingua. Che cos'è che unifica questi singoli atti di parole? Perché la mia parola viene accettata da voi come espressione più o meno corretta della lingua italiana, e anche quelli di voi che odiano il mio modo di parlare non ne possono più, gli sta sul cazzo proprio terribilmente, però anche loro devono riconoscere che io parlo italiano. Perché voi riconoscete che anche il vostro Salumiere e anche Emilio Fede parlano l'italiano? Insomma, sto parlando di casi un po' diversi in vari modi dalla mia produzione linguistica. Tutte le produzioni linguistiche sono italiane. Perché? Dice Sostino, perché c'è un modello dietro, un modello, una struttura, ecco perché strutturalismo, ecco perché linguistica strutturale, c'è una struttura generale che unifica tutte queste differenti parole, ogni atto di parola, ogni espressione parolistica, mettete 4.000 virgolette per cortesia, parolista di parola, ogni gesto, ogni atto di parola, è la realizzazione, l'attuazione, l'implementazione, direte voi che sapete qualcosa di informatica, il rendere concreto un modello generale, formale, che in quanto tale, allora la langue non è l'italiano, nel senso che nessuno di noi parla la langue, una langue non si parla, una langue è un modello strutturale, è una struttura, è il presupposto per poter parlare, per poter fare gli atti di, diciamo, parole. E allora questa distinzione, ripeto, era stata adombrata, ma insomma quello che Saussure rimprovera in gran parte alla linguistica precedente a lui è quella di voler costruire una linguistica sulla parola. Saussure dice: non si può fare nessuna teoria linguistica sulla parola, non c'è una grammatica della parola, né una grammatica né una teoria di una singola lingua, grammatica, né una teoria linguistica generale, teoria possibile se mai ci fosse di tutte le lingue. Non è la parole l'oggetto di studio della linguistica, l'idea è la langue, cioè una specie di astrazione, una specie di modello che sta dietro, che costituisce la struttura di fondo, la struttura di base di una frase. Quando Chomsky negli anni 50 distinguerà nelle produzioni linguistiche la surface structure, la struttura superficiale, dalla deep structure, la struttura profonda, non farà altro in qualche maniera che riprendere la vecchia distinzione saussuriana di langue e parole. Non posso andare avanti, no? Potrei starci altre 5 ore a parlare, perché questa distinzione ha una serie di conseguenze gravide di, diciamo, significato. Però adesso per il momento quello che ci interessa, cioè quello che ci basta, ci è sufficiente per gli scopi di questa cazzo di lezione, è quello di, diciamo, capire quindi che non si dà, virgolette, scienza se non di una struttura astratta che in realtà non è la lingua. La langue non è la lingua. Il modo in cui noi diciamo la lingua, nell'uso comune che noi abbiamo, il nostro uso di la lingua italiana può voler dire due cose diverse. Saussurianamente può voler significare una langue, se noi ci riferiamo al modello ideale astratto dell'italiano, può significare la parole, se invece dice io parlo italiano. Dire io parlo con italiano è intendere la parola italiano dal punto di vista della parole, della parola, non della langue. Quindi la langue è qualcosa che non esiste nella concreta produzione, ma che, dice Saussure, deve essere presupposta per poter capire come mai tutti i singoli atti di parola comunicano tra loro, cioè la gente che parla una data lingua si capiscono reciprocamente. Fatto la parola, fatto il grande significato, fatto così. Ora dice Saussure, si dà teoria, si dà sapere, si dà scienza della lingua solo a livello della langue, non della parole. La teoria sulla lingua a livello della langue mi spiegherà come mai i singolati di parole sono realizzazioni più o meno giuste, più o meno felici, più o meno interessanti di questa struttura della langue. Dice Saussure, attenzione, dice Saussure, bene, una struttura può essere, quindi, diciamo, oggetto della linguistica è lo studio di una singola langue o di famiglie di langue differenti o addirittura di tutte le possibili langue del genere umano. Questo studio sulla struttura, dice Saussure, si può fare in due modi. Si può prendere in esame una langue così come essa si presenta in un dato momento storico, in un dato istante. Gli anni 50 in Italia, gli anni 10, parlo del Novecento in Italia, il XVI secolo in Italia, il XVII secolo in Francia. Io prendo, considero l'insieme delle produzioni linguistiche di quel certo periodo, studio la langue sottostante, costruisco, faccio uno studio strutturale di quella lingua da che punto di vista? Dice Saussure, dal punto di vista sincronico, sincronos. Isolo un certo intervallo di tempo, il più possibile ristretto, però può essere anche un secolo, può essere una decina d'anni, può essere. No, isolo quello e dico. Nel XVI secolo in Francia si parlava questo francese qua e faccio una teoria là. Questa è una teoria, questo è uno studio sincronico della struttura linguistica. Però, dice Saussure, questo non esclude invece che si possa studiare una struttura dal punto di vista dei cambiamenti che essa nel tempo subisce. L'idea di langue non vuol dire che lui, che Saussure pensasse che la langue era una cosa che nasceva una volta per tutte, come Minerva nasce armata dalla testa di Giove e poi non cambia più. Le langue cambiano, dice lui, hanno, quindi le strutture si evolvono, hanno una. Quindi se io voglio fare uno studio su come è cambiato l'italiano dal XIII secolo ad oggi, faccio uno studio, dice lui, diacronico, dia, attraversare, dielettrico, diagramma, qualcosa che attraversa, diacronos. Diacronico, uno studio, quindi uno studio, attenzione, oggi per una serie di motivi, per un equivoco, si tende a identificare lo strutturalismo con lo studio sincronico, il non strutturalismo con quello diacronico, è una panzana, non è così. Saussure ha esplicitamente detto che le strutture possono essere studiate sia in modo sincronico sia in modo diacronico. Fortunatamente, non so, però, come dire, siccome di diacronia c'era stata una abbuffata nel secolo precedente, cioè la linguistica dell'Ottocento era una linguistica esclusivamente diacronica, cioè eccessivamente diacronica, anche un po' beotamente diacronica, diciamo, da questo punto di vista, allora Saussure dice, beh, siccome di diacronia se ne è fatta tanta, io adesso mi concentro sulla sincronia e quindi vi faccio vedere come si può studiare sincronicamente una certa, diciamo, struttura. Questa scelta particolare, però particolare, contingente, specifica, diciamo, Saussure ha fatto sì che successivamente si identificasse il punto di vista strutturale con un punto di vista sincronico, cioè detto in altri termini c'è poca linguistica strutturale diacronica e molta linguistica strutturale sincronica, anche dopo Saussure, cioè nel corso del Novecento. Però non, questo non vuol dire che dal punto di vista generale non sia possibile fare una, quindi sincronia e diacronia. Abbiamo fatto pure questo. Si è significato, langue parole, sincronia e diacronia sono grosso modo fra di loro legati. La questione del sintagma paradigma non è ovviamente slegata, ma è abbastanza autonoma. L'individuazione di un punto di vista sintagmatico opposto a uno paradigmatico è obiettivamente uno dei successi maggiori della linguistica saussuriana e quindi della successiva linguistica strutturale. Perché ci aiuta, è ovviamente collegato con la questione della struttura, ma diciamo, realizza, mi dà una indicazione per uno studio strutturale un po' più specifica di altre cose. Facciamo un esempio. Io mi costruisco un lessico di una lingua, per esempio il lessico della lingua italiana, e dico per esempio, faccio un elenco di tutti i sostantivi della lingua italiana. Tra questi sostantivi figura cane, gatto, sedia, ragazzo, bontà, saggezza, velivolo, mettiamo tutta una serie di cose. Bene, io quando parlo, adesso che sto parlando, io ho implicitamente nella mia testa, come ognuno di voi, non è che lo faccio io perché sono bravo, per tutti quelli che parlano italiano, hanno nella propria testa, si sono costruiti, diciamo, un database, un dizionario, un lessico. E adesso devo dire, adesso che io sto parlando, io dico adesso che io so che frase voglio dire, adesso che io sto parlando, devo scegliere un verbo, cosa faccio? Vado, ho una funzione di indicizzazione intracapa, che va a vedere fra tutti i verbi possibili qual è il verbo che descrive l'azione che sto facendo adesso, parlare, figlio parlare, lo estraggo dal database, lo metto sull'interfaccia mio, e l'interfaccia in questo momento è i miei organi formatori, e decido nel giro di pochi nanosecondi di pronunciare il verbo parlare, no? Adesso che io sto parlando è una frase, no? È un insieme di parole che io e voi riconosciamo dotate di significato perché obbediscono a certe regole della grammatica, per esempio il fatto che sto parlando è una forma verbale, è una specie di presente frequentativo, dice esattamente quello che sto facendo in questo momento, quindi devo usare il verbo stare alla prima persona, poi devo mettere un gerundio parlando, io sto parlando, adesso che sto parlando, c'è un complemento di tempo, adesso, e poi ci sarà un'altra frase che viene dopo. Bene, tutto quello che io sto costruendo adesso è la mia produzione verbale, io sto producendo dei sintagmi. Sintagma, sin, come sincronia, ciò che metto insieme, ciò che assemblo, le parole che io assemblo in un dato momento per fare una produzione verbale sono dei sintagmi, le frasi sono, diciamo, sintagmi. Io posso fare un'analisi sintagmatica della frase adesso che sto parlando, virgola, dico sciocchezze, punto. Questa frase la posso analizzare dal punto di vista sintagmatico. Analizzo il sintagma. Adesso che sto parlando dico sciocchezze. Vedo che c'è una frase principale, dico sciocchezze. Una frase subordinata, adesso che sto parlando, di tipo temporale, costruita con una congiunzione di tipo temporale. Ho usato certe regole di concordanza dei verbi tra persona, declinazione del verbo. Questa è, io ho analizzato il sintagma. È chiaro che ogni analisi concreta di una produzione linguistica è una analisi sintagmatica. La produzione linguistica consiste di sintagmi, la parola consiste di sintagmi. Ma non è possibile produrre dei sintagmi, cioè fare della parola, se dietro, a monte, non ci sono i paradigmi. Cosa sono? Noi il termine paradigma, grosso modo, è lo stesso senso in cui voi solo usate, ve l'hanno imposto a forza, infilandovelo col cannello della polenta per l'orecchio nella vostra... il paradigma del verbo essere. Quando io declino il verbo nelle... sei persone singolare e plurali, una, due, tre, singolare e plurale, e quindi dico tutte le forme verbali di un verbo, io sono, tu sei, egli è, noi siamo, voi siete, essi sono, dico questo è il paradigma, è un paradigma verbale. Perché si chiama paradigma? Esattamente per questo, perché ogni volta che voi volete dire la frase io sono ubriaco, cosa fate? Scegliete all'interno del paradigma verbale in base a due considerazioni. Primo, di chi devo dire che è ubriaco? devo dire che sono io che parlo, o è lui che è il mio amico in questo momento, o è una terza persona che parlo, quindi prima, secondo, terzo, quindi faccio io. Secondo, quando è che devo dire che sono ubriaco? Adesso sono ubriaco, o lo ero ieri, o lo sarò tra un po' perché sto continuando a bere vodka tutta la sera e so che più di tanta non reggo? E allora scelgo fra sono, ero, fui, sono stato, sarò, sarei, sarò stato, paradigma. Se voi non avete disponibile nella vostra testolina, nella mia testolina, non abbiamo disponibile la scelta tra queste varie cose, io non posso produrre nessun sintagma. Non produco sintagmi, produco coacervi di cose, di parole. Quindi una produzione sintagmatica presuppone una presenza paradigmatica. Il sintagma è ciò che c'è nella lingua. Quando dico siccome ho bevuto troppa vodka, virgola, sono ubriaco, punto. Tutti gli elementi del sintagma sono riuniti in questa frase. Quindi una analisi sintagmatica di una frase è un'analisi che si basa sulla presenza. E il sintagma è qualcosa che mi mette insieme gli elementi che sono davvero presenti dentro la mia frase. Questo è il sintagma. Il punto di vista sintagmatico è il punto di vista della presenza, ciò che c'è. Bisogna dare conto di ciò che c'è. Che cosa significa? Voi sapete cosa significa la frase siccome ho bevuto troppa vodka sono ubriaco, perché avete presente le leggi sintagmatiche che riconoscete, il vostro orecchio, non il vostro orecchio, il vostro cervello, riconosce certe relazioni tra i singoli elementi del discorso, e quindi dite, questo sintagma vuol dire questa cosa, vuol dire che Carolina ha bevuto troppa vodka e che la tiene poco, tanto, bene, male, cioè se non ha bevuto più di un litro, dite cazzo come la tiene bene, se ha bevuto due bicchierini, dite Carolina tiene poco l'alcol. E sapete fare tutte le vostre conseguenze dal vostro sintagma. Però, sia per produrre che per riconoscere sintagmi, occorre un paradigma. Cioè, occorre una serie di cose che non ci sono. Quando voi dite io sono ubriaco, non dite io ero, io fui, io sono stato, io sarei stato, io sarò. Le avete presenti in testa, ma le scartate tutte. E prendete quella che corrisponde a quello che volete dire in quel momento. Voi volete dire che siete ubriachi in quel certo momento, e quindi dite io sono ubriaco. L'elemento presente è sono. Gli altri elementi, fui, ero, sarò, sono stato, sarei, non ci sono, sono assenti, ma sono ugualmente importanti. Quindi che cos'è il paradigma? Il paradigma è il luogo dell'assenza. Un'indagine paradigmatica si fa su ciò che non c'è, non su ciò che c'è, su ciò che ci potrebbe essere. Il paradigma, in qualche modo, è il regno della possibilità, è la riserva di possibile che noi abbiamo sempre presente ogni volta che realizziamo qualche cosa, ogni volta che realizziamo un enunciato, ok? Il sintagma non è il possibile, il sintagma è il reale, è ciò che c'è davvero. La linguistica di Saussure ci ha insegnato che non è possibile parlare del reale senza tenere conto del possibile, che il possibile, questo ve lo dico io, non lo dice Saussure, ma insomma, che il possibile è una dimensione altrettanto importante dell'attuale, di ciò che esiste di fronte a noi, di ciò che è dato di fronte a noi, è altrettanto importante ciò che potrebbe essere, non solo ciò che c'è. Senza avere un punto di vista sulla possibilità, senza sapere che cosa avrei potuto fare invece di fare quello che ho fatto, io non posso neanche fare quello che faccio, diciamo davvero. Quindi c'è una bellissima frase di Musil, se ve la cercate all'inizio, nelle prime pagine dell'Uomo senza qualità, in cui Musil parla dei cosiddetti possibilisti, come li chiama lui, e dice i possibilisti vivono in un mondo un po' di fumo, fatto di fantasia e di congiuntivi. E mi rendo conto che il secondo elemento della frase di Musil è un elemento perituro, cioè che sta morendo nella lingua italiana, che quasi nessuno più usa il congiuntivo, ma il congiuntivo invece è un bel modo, non perché è figo, non perché, ma perché è il modo della possibilità. Non è l'indicativo, non dice quello che faccio, dice quello che sarei in grado di fare, quello che potrei fare, adesso usando il condizionale, quello che potrei fare se non fossi congiuntivo in questa situazione. Quindi il congiuntivo, dice Musil, è il modo di coloro, prosegue in questo breve passo dell'ontecolità, di coloro che sono attenti alle ancor non deste intenzioni di Dio, alle intenzioni di Dio che non si sono ancora risvegliate. Musil non credeva in Dio, naturalmente, come non ci credo io, dal punto di vista però si può usare una, come dire, metafora sulle intenzioni di Dio per intendere ciò che ancora non ha realizzato, ciò che vive solo nella nostra mente o nelle menti, in alcune menti, e si può discutere, si possono fare progetti, è sempre più difficile ovviamente al giorno d'oggi fare progetti, perché il congiuntivo, in realtà il modo congiuntivo, voi sapete che non esiste un congiuntivo futuro, che del futuro esiste solo un indicativo e un condizionale nella lingua italiana, in grosso modo anche in altre lingue indoeuropee. Io sarei stato, io avrei voluto, una sorta di condizionale futuro, c'è un futuro indicativo e un futuro condizionale, non c'è un futuro congiuntivo, ma perché non è necessario che il congiuntivo sia futuro, perché il congiuntivo è strutturalmente il modo del futuro. E naturalmente diciamo il futuro oggi è messo male, nella nostra esperienza, cioè non c'è più il futuro. Là, voi sapete che i primi che si resero conto di questa cosa e la dissero in modo eclatante, anche un po' sconveniente per alcuni, furono dei giovanotti londinesi un po' stracciati, con degli spilloni addosso e con altre cose del genere, che chiamavano i punk, che negli anni tra il 75 e il 77 coniarono questo slogan. La loro parola d'ordine era no future, non era una dichiarazione di intenzioni, era una presa d'atto, non c'è più il futuro. Quel processo cominciato alla metà degli anni 70 è ancora in corso oggi, hanno fatto qualche passo in più per distruggerlo, questo futuro, per distruggere insieme col futuro anche il passato, facendo finta di non distruggere il passato, anzi glorificandolo, ma insomma prendendo il presente e dilatandolo a misura tale che può contenere sia il vecchio passato che il vecchio futuro, cioè quello che il futuro che un tempo c'era. Il capitalismo classico è un capitalismo che non può fare meno del futuro, non poteva fare meno del futuro. L'imprenditore doveva, quando decideva di produrre una cosa, di produrre un tavolo, doveva prevedere che questo tavolo che lui produceva, che gli sarebbe rimasto in magazzino per alcune settimane, se non per alcuni mesi, avrebbe incontrato futuro, il favore del pubblico, incontrerà. Il capitalista anticipava oggi i soldi per produrre questo tavolo perché lo vendeva domani. E voi sapete perché c'è questa crisi economica oggi, no? Questa idea di investire dei soldi oggi perché frutteranno domani non esiste più. Si fanno dei soldi oggi prevedendo quale sarà la quotazione di mercato del grano fra 3 anni alla borsa merci di Londra, o alla borsa merci di Rawalpindi in Pakistan, o alla il futuro è stato totalmente assorbito nel presente, eh? I futures si chiamano, no? Queste options, questi prodotti finanziari, la cui proliferazione ha intossicato l'economia e purtroppo anche noi, ma questo che cosa vuol dire? Questo significa esattamente quello che vi ho detto prima, che il futuro come modalità dell'esistere non c'è più, diciamo adesso. Il tardo capitalismo o il capitalismo post-fordista o il capitalismo della conoscenza, come lo vogliamo chiamare, fra le tante cose che ha fatto, fra le tante condizioni che realizza per potersi espandere, eccetera, c'è proprio questa, c'è quella di non prevedere, di espungere, di allontanare, di togliere ogni idea di, diciamo, futuro. Ecco perché probabilmente il congiuntivo oggi, da un punto di vista linguistico, sta in cattive acque. Non perché ci sono quelli che non lo usano come i giornalisti televisivi, che è vero, voglio dire, naturalmente, ma è un po' più di questo, è che concettualmente non c'è più posto per il futuro in questa, diciamo, società. E noi dobbiamo prenderne atto, naturalmente, perché anche se volessimo fare delle cose diverse da quelle che ci impongono di fare, non credo che possiamo più farci. No, beh, torniamo al futuro, non possiamo fare come Zemeckis, ritorno al futuro, non possiamo fare così, ritorno, non si può tornare indietro mai. Bisogna prendere atto che siamo in questa dimensione di questo presente allargato, e in questo presente allargato dobbiamo, se abbiamo voglia, evidentemente, se pensiamo che sia nostro dovere, o se semplicemente ci divertiamo a cercare di mettere dei sassolini per bloccare gli ingranaggi del cazzo che ci stritolano, dobbiamo farlo senza più fare riferimento neanche noi, perché se lo facessimo non faremmo nient'altro che delle operazioni nostalgiche, e le operazioni nostalgiche, anche quelle più contestative, sono totalmente ammesse e anzi a volte incoraggiate dalla stessa cultura dominante. Quelli che protestano vanno benissimo se lo fanno in nome di vecchi valori. Ah, come si stava meglio quando c'era il lavoro. Ah, come si stava meglio quando c'era la penna stilografica. Ah, come si stava meglio quando c'era il congiuntivo. Tutte queste operazioni possono essere fatte e trovano il loro posto, cioè una casellina del sistema che dice contestatori e nostalgici. Sì, che andiamo lì dentro, danno pochi soldi naturalmente, perché è un genere di merce abbastanza, diciamo, salutato, però chi ha qualche cosa, anche lui trova il suo posto. Quelli che invece non trovano posto, cioè dove non c'è, dove noi dobbiamo fare quello che ci pare, insomma. Chi vuole deve trovare il modo di trovare una casellina che non ci sia, di stare dentro una casellina che non sia prevista in queste cazzo di cose qua. Per esempio inventarsi dei nomi, per esempio, perché sono cose che sembrano stupide, ma cazzo, ma sei lì, fai due scherzetti, bla bla, e invece spesso le cose che appaiono praticamente più stupide sono l'operazione più giusta da fare. Bisogna anche stare attenti a non farla troppo a lungo, perché poi ovviamente un sistema la cui temporalità, una cultura la cui temporalità si articola prevalentemente sul presente, è una cultura, dico dal punto di vista dominante, dal punto di vista di chi detta le condizioni per questa cultura, terribilmente astuta, perché è in grado di recuperare rapidamente anche le operazioni più, diciamo, radicali. Quindi un'operazione abbastanza radicale oggi, sempre in genere, ma oggi in modo particolare, deve essere quella di chi, come dire, non solo viene realizzata senza progetto, senza fare un progetto classico, senza dire farò una cosa, cioè facendola, aggiustandola e facendola in modo che abbia dentro di sé degli stessi meccanismi regolativi che le consentono di cambiare in corsa in modo da non farsi, cioè questo lo diceva già Akin Bey nel libro sulle TATS della fine degli anni Ottanta. Le TATS sono queste temporary autonomous zone temporaneamente autonome, che hanno una vecchia storia nell'Occidente, perché l'esempio più storico, più famoso di TATS sono le isole di Gratis, quindi XVII secolo, la tortuga, eccetera. Luoghi nei quali non vale la legge, la norma della, diciamo, società normale, ma vale una libera contrattazione tra liberi, diciamo, soggetti che si mettono d'accordo per fare delle cose, per esempio rapinare le navi degli spagnoli di solito, cariche di ricchezze e di dobloni, certamente prodotte dal sudore di un sacco di lavoratori, ma destinate a rimpinguare le casse non certo dei lavoratori, ma dei nobili spagnoli. Quindi diciamo è un atto meritorio depredare queste cose, come c'era Robin Hood che rubava, si dice, ai ricchi per dare ai poveri, non come Tremonti che ruba ai poveri per dare ai ricchi, che è esattamente l'opposto. E allora questi pirati abitavano in queste zone temporaneamente autonome. Certamente poi anche queste zone dei pirati prima o poi vengono, diciamo, riassorbite, o perché arriva una spedizione spagnola particolarmente cattiva che riesce a farli fuori militarmente, o peggio ancora, a volte, perché la regina d'Inghilterra, che ha sino al giorno prima finanziato uno di questi, diciamo, pirati, Francis Drake, addirittura lo ha fatto baronetto, l'altro servo, momentaneamente dice no, per adesso faccio un accordo con gli spagnoli, quindi a te ti faccio fuori. Quindi le TAC possono morire in vario modo. Attualmente le TAC possono morire intanto perché ti sgomberano, la gran parte delle volte succede così, arrivano e ti sgomberano e la tua TAC è andata bella che a fanculo. Certamente sono delle TAC che durano, non so, di un cavallo che una volta era una TAC, adesso è diventato più o meno un'attività commerciale di vario. Per un certo tempo è stato una TAC ed è il Forte Prenestino di Roma, che è una TAC da 36 anni, mi dicono 29, 25, mi dicono 35, 25 più o meno, esageravo. Da 25 anni di TAC non sono, però sono poche queste, la gran parte sapete qui, insomma, le poche TAC che avevamo a Milano, sapete come se le stanno sgombrando una via l'altra, non ce n'è quasi più una, le hanno ridotte di parecchio, insomma. E quindi bisogna trovare in qualche modo delle forme, insomma, per spostarci da un'altra parte, cioè mi ha chiuso questa, vado da un'altra parte, è un lavoro che può sembrare lungo, una fatica di Sisifo, però deve essere incluso nel nostro modello, grosso modo, nel nostro, ripeto, nel modello di chi vuole costruire qualche dimensione, diciamo, alternativa e non asservita al linguaggio, diciamo, dominante, di chi vuole fare sperimentazione linguistica e, diciamo, sociale. Io per esempio mi diverto a farla nel mio piccolo e con la cosa, poi se invece c'è chi si diverte a essere conformista, sono cazzi suoi, certo, nessuno lo può, come dire, è già abbastanza sfigato per conto suo, per cui nessuno gli deve dare un testa, poverino, so. Però chi volesse invece sperimentare qualche cosa di non aderente al, come dire, modello, può avere, però dovrebbe farlo, secondo me, la cosa più intelligente da fare non è quella di prendere, capisce, adesso restauriamo, si stava così bene con le altre categorie, dice, prendiamo presente, passato, futuro, che quello non si può più fare, nel senso che non è possibile, bisogna farlo in modo, va bene, ho divagato, sì, come se. Voi non mi fermate mai quando divago, non è che siete così collaborativi. Va bene, vi ho spiegato il sintagma paradigma? Pensate di averlo capito? Più o meno, sintagma paradigma. Lo studio della linguistica in senso più o meno sossuriano, poi insomma, e anche la nascita della semiotica porta a chiarire meglio l'ultimo quadrettino, e questo è quello che è più relativo a quello di cui vogliamo parlare oggi, che è gli antilinguistici. Sintassi, semantica e pragmatica non sono tre pezzi diversi del linguaggio, non sono tre diverse aree del linguaggio, sono tre diversi modi. Il linguaggio è come il fatto sociale, secondo Durkheim, è un fatto totale, si parla, è il linguaggio, non c'è la sintassi, la semantica, no, è il linguaggio. Però certamente se io devo andare a vedere come funziona, posso guardare il fatto linguistico, la produzione linguistica, la struttura della langue, la posso vedere da vari punti di vista. I punti di vista principali da cui la posso vedere, non gli unici, ma i principali, grosso modo sono tre. Primo, come si organizzano gli elementi costitutivi del linguaggio fra di loro in modo da produrre espressioni linguistiche riconosciute dagli altri, dai miei ascoltatori, come vere produzioni linguistiche. Giovanni Antonio mentovava una serie di tavoli inclusi all'interno di una reciprocità intima e insognata in un casino che adesso peraltro ricordo, ma domani, ieri, punto, Antonio, Roberto, Geremia, potesse addirittura senza verrò masticando dolce. Che cosa ho fatto adesso? Si possono dire un sacco, si può fare un sacco di produzione linguistica, non solo senza dire niente, ma spero di avere almeno turbato alcuni di voi avranno avuto una reazione, non so, non è una cosa carina sentire uno, dice questo è pazzo, questo è, no, cosa cazzo dice, sì, a parte tutti quelli che sono, però se uno si mette, però se sono sulle parole, come ho detto, non ho nessuna delle parole, non mi sono inventato nessuna parola, credo, forse una o due, ma insomma, ho usato dei mattoni, degli elementi costitutivi della lingua italiana, ma voi non avete capito niente, non potevate capire niente, non eravate. Quindi ci sono dei modi attraverso cui, senza i quali poi posso anche farmi scappare se sono incazzato, vi posso dire una frase sgrammaticata, ma voi riconoscete l'errore, la correggete voi autonomamente, la inserite. Quindi, allora, questa è la sintassi. Attenzione, sintassi non vuol dire che la sintassi sta tutta nel punto di vista sintagmatico, niente affatto. C'è sintassi del sintagma e sintassi del paradigma. La sintassi è fatta dall'unione di sintagma e di paradigma, cioè se io non ho presente i paradigmi sottostanti, cioè il database e come è organizzato il database, non posso fare nessuna interfaccia linguistica, non posso costruire nessuna interfaccia linguistica. Ma però questo è il punto di vista sintattico, è il punto di vista formale, il punto di vista delle leggi attraverso le quali gli elementi attraverso le quali si direbbe da un punto di vista logico si costruiscono espressioni ben formate, well formed instances, well formed, non phrase, non dite mai phrase, perché phrase in inglese non vuol dire frase, ma vuol dire appunto sintagma, vuol dire elemento di una frase. Allora, punto di vista sintattico. Adesso io però vi dico questa frase, adesso vi dico una frase che è: idee verdi dormono furiosamente. Questa frase non l'ho inventata io, l'ha inventata Chomsky in una delle sue opere. Allora, la frase idee verdi dormono furiosamente viene accettata da voi in maniera un po' diversa, credo, dal coacervo di parole che ho detto prima per qualche secondo, no? Non è la stessa cosa, non sono parole accozzate a cazzo, sono parole che hanno un legame sintattico, giusto? Avete qualcosa da obiettare alla sintassi della frase idee verdi dormono furiosamente? Sintatticamente è fatta bene? Ok, quindi a livello sintattico è una frase che funziona. Ciò nonostante, qualcuno di voi sarebbe portato a dire che significa qualcosa questa frase? Qualcuno forse sì, eh? Perché? Perché il linguaggio è pieno di cosiddette figure retoriche, tra le quali la metafora. Qualcuno vi potrebbe pensare, cazzo, questo è, ha usato delle robe particolari per dire una metafora. Adesso, ma perché voi sapete chi sono io, quindi probabilmente da me vi aspettate di tutto, ma supponete che lo sentite dire a Giovanni, idee verdi dormono furiosamente. Giovanni dice, vorrei un certificato, lui fa, idee verdi dormono furiosamente. Anche se dice Giovanni nessuno ti possa dire, c'è una frase senza significato. No, mi rendo conto che Allora, diciamo, se vediamo se siete disposti a dire che è una frase dal significato problematico? Ah, cazzo, almeno quello, e se no sembra che faccia delle cose. Allora, come dire, la sintassi non basta per parlare bene, per produrre un discorso sensato. Ci vuole un qualche cosa che leghi ciò, diciamo, i suoni o i segni scritti su un pezzo di carta a ciò che questi vogliono dire. La questione del rapporto, cioè nella dicotomia saussuriana, la sintassi è tutta dal lato del significante. Sono i significanti che si organizzano in maniera sintattica, ma dentro il segno c'è un rapporto tra significante e, diciamo, significato. La semantica è quel punto di vista sul linguaggio che indaga che cosa? Adesso avete già capito, avete già subodorato la trappola, spontaneamente uno direbbe il significato, la semantica è sempre significato, in realtà non è proprio così. Il significato in quanto tale, questa poi è un'ambiguità, perché chissà se c'è davvero un significante o un significato, in realtà la semantica indaga più che il significato la barra che sta in mezzo, indaga il legame che c'è tra ciò che vogliono dire, su ciò che vuol dire la produzione linguistica e la produzione linguistica stessa. È una scienza della barra, è un punto di vista sul linguaggio che mi spiega qual è il rapporto tra i singoli elementi del linguaggio, quelli che hanno significato, e gli elementi del mondo, e come si combinano insieme. La semantica ha diversi livelli, c'è una semantica lessicale. La parola cane ha un significato, la parola bottiglia ha un significato, giusto? Però attenzione, la parola bottiglia ha un significato, bene, allora io dico bottiglia, mi arrivo un giorno di fatto, bottiglia, voi che cosa dite? Vuol dire qualcosa il mio dire bottiglia? Che cosa ci manca perché io abbia detto qualcosa? Sì, come la fai difficile. Questa bottiglia è quasi vuota. Ha significato la frase che ho detto? Sì, ho detto la frase. Bottiglia. Che cos'è che ci manca quando dico bottiglia? Un? Oh, cazzo, ragazzi, è facile, non è più di un verbo, manca un verbo. Manca, senza verbi non si fanno le frasi, possono essere sottintesi, Fatemi un esempio di qualche cosa di analogo a bottiglia che invece ha senso, che invece ha significato. Che ha significato. Buongiorno. Ha significato? C'è un verbo? E allora? Che cazzo? Complicata la lingua. Perché buongiorno ha un significato e non c'è un verbo? È sottinteso, ovviamente. La frase completa è vi auguro buongiorno, vi auguro una buona giornata. Buongiorno è un segnalino, è una tag, come si dice, è un label, un'etichetta. È qualcosa che mi ricorda, la frase vera è vi auguro, non c'è il verbo, c'è un'azione, c'è un soggetto, io vi auguro, che cosa vi auguro? Buongiorno. La parola bottiglia da sola, tavolo, verde, arrivo dico verde, c'è un contesto in cui verde una frase dotata di significato. Per esempio, se voi mi chiedete qual è l'artista venuto ai corsi di autoformazione della Scuola Energie di Brera nel mese di novembre, io dico Verde, che è uno che si chiama Giacomo Verde, è uno che si chiama Verde, Verde è anche un cognome. ma facciamola sicuramente. Qualcuno di voi mi chiede di che colore è la bandiera della Lega? Verde. Cioè, è chiaro che nel gioco, diciamo, linguistico ci possono essere le frasi, ma perché anche in questo caso verde è una frase ellittica. Uno dei casini più difficili quando si traduce un libro sugli atti linguistici è che, adesso come poi vi insomma, spiegherò, tra gli atti linguistici paradigmatici che hanno studiato Austin e gli altri c'è per esempio il matrimonio, che è una roba, che è una formula, che nel matrimonio noi che lo diciamo sì, no? Diciamo il sì del matrimonio. In realtà se lo dice, perché i verbi performativi sono verbi in cui c'è sempre il soggetto, la prima persona, come nel caso del matrimonio sì. Ma che cazzo dite? Dice sì, non è un verbo. In realtà perché gli inglesi non dicono sì, dice I do, perché l'inglese dice do you want to accept as your wife, your wife? E lui fa I do. Gli inglesi non dicono yes or no, dicono, ripetono sempre il verbo, I do. Quindi questo, vedete che ci sono modi diversi di realizzare anche a seconda delle lingue. Comunque abbiamo capito grosso modo che cosa è la, quindi, semantica. La semantica è quel punto di vista sul linguaggio che esplora la barra che lega il significato, cioè come i significanti si legano con i significati. Alla sintassi dei significati non gliene frega nulla, anche se da un certo punto di vista sì, perché ci possono essere, però diciamo il punto di vista sintattico infatti spesso può provocare dei mostri, come la famosa parola idee verdi dormono furiosamente, che Chomsky introdusse allo scopo di indagare il problema se la sintassi, se le regole della sintassi fossero sufficienti per dire che una frase aveva senso o no. Questo è il problema. La risposta può essere molto più complicata di quella che voi potete dare, o sì o no, non è così, diciamo, semplice. Allora, sintassi e, diciamo, semantica. Terza cosa, pragmatica. È noto fino dall'antichità che alcune frasi, anzi molte frasi, molta parte della cultura linguistica ha degli effetti nel mondo reale. All'inizio di Alice il coniglio bianco corre disperatamente, incontra Alice e le chiede che ora è, le fa una domanda, chiede l'ora. Non mi ricordo più cosa gli risponde Alice, è così o no? Non chiede che ora è. Facciamo finta, non glielo chiede, guarda la robota. Supponiamo che il White Rabbit di Alice non avesse l'orologio e quindi quando incontra Alice le chiede che ora è. Non è così nel libro di Carroll, facciamo una lieve, dico questo perché ho qui una specialista del romanzo di Carroll che quando c'è ricorro a lei per chiederle lumi. Allora è una roba diversa, che ora è? Beh, scacciata, chiediamolo qualunque che ora è. Questo qualcuno mi, diciamo, risponde, io ho una informazione in più che prima non avevo, oriento il mio lavoro, per esempio so che mancano solo 5 minuti per andare a fare lezione a Brera 2, decido che non mangio, mettiamo, non è andato così ragazzi, ho mangiato. Ma insomma potrebbe, sarà difficile anche che succeda davvero mai nella pratica, arriverò con un quarto d'ora di ritardo, ma mangerò. Ma magari invece sono così buono, bravo, ligio ai miei doveri di insegnante che decido che non vado a mangiare. E tutto questo perché mi sono informato, non avendo l'orologio, avendo il cellulare scarico, non so che ora sono, chiedo a qualcuno che ora è. C'è un terribile spiffero, la porta è aperta, chiedo a Fabio, per favore chiudi quella porta, è una frase che ha un effetto. Fabio, se non è troppo stronzo, piglia si altro, se no mi tira un po' in testa, mi dice vaffanculo, te lo faccia lei, o fatelo tu, se no in generale si alzerà, chiuderà quella porta. Quindi ci sono delle frasi, molte sono, se ci pensate sono parecchie queste frasi, che hanno un effetto sul mondo, cioè generano delle azioni, o delle azioni che compie chi parla, o delle azioni che compie l'ascoltatore, l'interlocutore. Questa è la pragmatica. quindi c'è una sintassi del linguaggio, una semantica del linguaggio, una pragmatica del linguaggio. Tradizionalmente nella impostazione che va dalla dottrina dei segni degli stoici, che sono i primi filosofi dell'antichità greca ad avere abbozzato una specie di semiotica ante litteram, prima che venisse inventata la semiotica, diciamo dagli stoici a Chomsky, tanto per dire il più importante sostenitore di una visione denotativa o descrittiva del linguaggio, i due punti di vista fondamentali sul linguaggio sono stati la sintassi e la semantica. La pragmatica è sempre stata considerata una cosa accessoria. Diceva, insomma, sì, alcune frasi hanno anche alcuni pezzetti della lingua, alcune produzioni linguistiche hanno anche degli effetti nel mondo. Ma la cosa più importante è vedere come i segni sono legati tra loro e che cosa significano, qual è la relazione tra ciò che io dico e lo stato di cose del mondo. Nel Novecento la corrente filosofica linguistica più importante linguistica è stata il neopositivismo logico, in cui dobbiamo arruolare il Wittgenstein giovane. Wittgenstein giovane scrive un libro importantissimo chiamato Tractatus Logico-Philosophicus, 1926 credo, che meglio di altri esprime, in realtà lui fa delle, diciamo, critiche, ma diciamo in cui l'idea è tutto il mondo è linguaggio, tutto il linguaggio è mondo. Il mondo, la prima proposizione del Tractatus di Wittgenstein è il mondo è l'insieme dei fatti. Il linguaggio non fa altro che esprimere o tradurre in col linguaggio dei fatti. L'analisi dei comportamenti e dei differenti comportamenti che le differenti posizioni linguistiche possono produrre viene o data per scontata o lasciata in secondo piano. Il succo è che il linguaggio, lo studio di una teoria linguistica deve avere prevalentemente una componente sintattica e una componente semantica, con una piccola appendice pragmatica che è una conseguenza un po' strana, ma un po' di queste due cose. A partire dagli anni 50 del secolo scorso, alcuni filosofi, tra cui va annoverato Wittgenstein stesso, il quale, trasferitosi in Inghilterra, messosi a fare il maestro elementare nelle montagne e insegnando poi a Cambridge, negli anni 50, mentre negli anni 20 aveva scritto il trattato, negli anni 50 comincia a riflettere sempre sul linguaggio e produce un'opera importantissima che si chiama Philosophische Beobachtungen, osservazioni filosofiche, in inglese, non so comunque è scritta in tedesco, quindi pur stando, poi dopo che ha scritto altre cose in inglese. Comunque, diciamo, le osservazioni filosofiche sono l'opera pubblicata, credo postuma, che è il caposaldo del quello che si chiama il secondo Wittgenstein. Il Wittgenstein che va via da Vienna, va in Inghilterra, si mette a fare il maestro, insomma, cambia anche da un punto di vista personale molte cose. C'è un bel film che non so se avete visto mai, io non l'ho visto quindi non so dire, il film di cosa? Di Jarman, o di Jarmus, di Jarman, sì. C'è un film di Jarman su Wittgenstein, in cui è un film bellissimo, mi hanno detto, però io non l'ho visto quindi non so dire. Comunque se lo trovate, credo sia Jarman, però non lo so, se avete internet qua e avete un cosa per... è Jarman, okay. Ma tu l'hai visto? Il film spiega bene queste cose o no? Un po' personale, però lo so, mi hanno detto che è interessante questo modo di proprio di far vedere una, come dire, filosofia sul piano. Allora, il secondo Wittgenstein è quello che invece avvia da un certo punto di vista una piccola rivoluzione negli studi di linguistica, che pochi anni dopo, dunque, Osservazioni filosofiche è un testo. Ragazzi, la vecchiaia vuol dire che uno deve mettere gli occhiali. No? Ma in realtà io quando ero giovane gli occhiali li portavo sempre, perché ero miope. Adesso sono mezzo miope, mezzo presbite, quindi li metto e li tolgo. Allora, le osservazioni filosofiche sono del... siccome c'è scritto qua, lo vado a vedere qua perché non me lo ricordavo, cazzo di Buddha. Vabbè, c'è scritto manco qua, adesso mi incazzo. Non c'è scritto. Ma sono state scritte, secondo me, tra il 53 e il 54. Poi però sono state pubblicate dopo. Allora, dopo... uno dei punti di vista fondamentali di Wittgenstein nelle osservazioni filosofiche sul linguaggio sono due. Primo, dice Wittgenstein, il linguaggio è un generatore di giochi. Il linguaggio è simile al gioco, cioè ci sono delle regole nel gioco e soprattutto queste regole generano dei comportamenti. Sia un gioco, in tutti i giochi, sia il gioco degli scacchi, sia il gioco del pallone, qual è la cosa principale di un gioco? È che in base alle regole che vengono, diciamo, stabilite, il comportamento della gente cambia. Ora voi dite, ma il giocatore di scacchi, il giocatore di scacchi si comporta in maniera, cioè, il suo comportamento è tutto concentrato sulla, diciamo, scacchiera, ma evidentemente... Se io ho il re sotto scacco per effetto di certe regole, il comportamento è in qualche maniera forzato, io devo fare di tutto per proteggere il re dall'attacco dell'alfiere, della torre, di qualche altra cosa, devo muovere delle pedine intorno, quindi il mio comportamento varia in relazione al comportamento dell'altro e perché ci sono le regole. Se io gioco al pallone, il comportamento del giocatore è un comportamento fortemente derivato dalle regole e dalla situazione che sta lì. Il terzino, allora io adesso dirò delle bestialità perché io non ho mai ho visto mezza partita di calcio in vita mia, ho vomitato subito perché ho deciso di non avere più cose che dica delle imprecisioni, ma mi sembra grosso modo che sia così. Allora, per esempio, se la palla viaggia nella metà campo della tua squadra e c'è un gioco particolarmente veloce tra due o tre degli attaccanti dell'altra squadra, il comportamento del terzino, per esempio di uno dei difensori o del centrocampo, dovrà essere quello di contrastare questa roba, per cui farà di tutto per gli farà così, babà, bubù. Ecco, certo, però alcune cose non le può fare, credo per esempio non possa... Per esempio prendere un alzo, come dire, trombetta e organizzare un breve spettacolo di marionette sul campo per distrarre l'attaccante. Ma potrebbe farlo in astratto, perché no? Perché non può farlo? E ci sono delle con regole che impongono che non ci possano essere marionette sul campo di gioco, penso, suppongo, non so, se una regola del genere non c'è è quantomeno implicita. C'è un'altra regola che consiste nel fatto che il giocatore di calcio non può estrarre dalle sue mutandine tipo etabeta un potente marciapicchio e batterlo fortemente sul cranio dell'avversario onde fermarlo. Allora, tutte queste regole mi dicono anche che tranne un solo giocatore che si chiama portiere, nessuno può toccare la palla con le mani, vero questo anche. E allora, e quindi il suo comportamento sarà, voi vedrete gente, perché è quello che mi stupì a me di vedere gente che si agita ai modi strani con la gamba che già così, la cosa lì, e dice ma cazzo perché non la tocco con le mani, pensavo io, ma ormai ero molto molto piccolo perché mi è passato presto la cosa. Ecco, allora, comunque, il comportamento della gente, idem, dice Wittgenstein, la stessa cosa succede con il linguaggio, anche il linguaggio che in cui ci sono delle regole che determinano se la mia produzione linguistica è corretta o non è, diciamo, corretta, implicano delle modificazioni nel comportamento altrui. Grosso modo negli stessi anni un pensatore meno importante, un altro filosofo meno importante di Wittgenstein, ma insomma, che stava nell'altra grande università del sud dell'Inghilterra, che è Oxford, però solamente dovete sapere in quegli anni di Oxford e Cambridge erano quasi incomunicabili, quindi Austin sapeva probabilmente che c'era un famoso filosofo più vecchio di lui che si, austriaco che si chiama Wittgenstein e che insegnava a Cambridge, però probabilmente non sapeva nulla di quello che Wittgenstein insegnava davvero a Cambridge, lui stava ad Oxford. E comunque insomma fra il 51 e il 55 scrive un'opera il cui titolo è, l'ho già fatto vedere l'altra scorsa, Come fare cose con le parole, How to do things with words. Il libro viene pubblicato postumo nel 61, nel 62, ma viene scritto nella prima metà degli anni, diciamo, 50. Poi, siccome è la trascrizione di una serie di conferenze fatte da lui, e lui era molto preciso, non è come Saussure, che c'è quasi tutto il testo scritto, insomma, lui è uno che scriveva prima delle conferenze. E quindi questo è uno dei libri che insieme con il Tractatus e con le ricerche di Wittgenstein hanno influenzato maggiormente la linguistica. Non è un libro di linguistica, è un libro di filosofia del linguaggio, sono due cose diverse, però ovviamente ha influenzato anche la, diciamo, linguistica. Per il momento ve la dico così, poi ci sarà da fare delle, insomma, specificazioni importanti, ma diciamo analogamente a quello che dice Wittgenstein sul linguaggio parlando dei giochi nelle ricerche filosofiche, analogamente Austin in questo libro enuncia una tesi, cioè dice il linguaggio non è principalmente uno strumento per descrivere il mondo, cioè per creare un accordo tra la produzione linguistica e certi stati di fatto e certi stati di cose, sai, da noi. Lo strumento, con il linguaggio è principalmente uno strumento per fare delle cose. Parlando si fanno delle cose. Parlare vuol dire compiere una azione. Compiere una azione, in inglese si dice to act, in italiano atto. Da questa, diciamo, dall'opera di Austin principalmente, viene fuori non una vera e propria teoria, perché ognuno gli dà le sue, ma un indirizzo di ricerca che si può chiamare, che è stato chiamato Speech X. In italiano diciamo un indirizzo di ricerca sugli atti linguistici. Vedete che qua i parlanti inglesi dicono speech, non dicono language, non dicono linguistic, aggettivo che c'è anche in inglese, dicono speech. Quindi letteralmente noi saremmo portati a tradurre gli atti di discorso, ma si può tradurre atti linguistici. Parlando noi compiamo degli atti, non solo gli altri in certi casi, ma anche noi stessi compiamo degli atti. Adesso io volevo riassumervi rapidamente almeno l'impostazione di questo libro, che è molto breve, come si dice, molto corto, un po' più di 100 pagine, però è straordinariamente acuto. E allora diciamo che però lo farò dopo un po' di intervallo breve, però ragazzi andate via, perché comunque 10 minuti al massimo e poi io vado avanti, andrò avanti fino alle 5 e un quarto oggi. Possiamo? Non so se c'è ancora Belluccio. Non c'è già più Belluccio? No, lo so ragazzi, io che ci posso fare? La chiedo sempre, ma all'inizio della lezione c'è Belluccio. Scusa, ma perché non sei presa, scusa Loretta, non devi pigliare una sedia, no? Capisco che sei...